Allor decisi di tornare. Un uomo scendeva lento il sentier dell'ale. La che va forse in persona. Parla sommesso e ben lo riconobbi. Egli è certo un uomo di coraggio. Perché? Perché mi sono creatura così tarda. Piante solen, lo si teme qui si voglia vendicar la valli. Poi va, pazzie, però non si sa mai. Fanno dormir lontano, ma la notte è questa. Non mi si piglia. Thank you.

sole. La mi sono affondò per un silenzio. Oh, Piaggia d'oscurità. Oh, signore tu, amore mio, sono qui, non mi lasciare. Quale tenebre pensi tu cercando il desiderato sentiero del ritorno? Thank you. mai, brigate allegre e giovinette calde. Mi fate! me scherzar, tu non me scherzar. corri dietro all'amor un corri il tuo amore per me non ha segreti poi tu perché io venni da tuo padre perché gli dissi e Giuseppe amavi e ti amavi Thank you. commessa e mal sentiam. Dieci fiori d'oro che alla valli un bacio strapperò. Scommessa strana. Ebbene, fiamor per gli con te da tempo desiavo. Se dici il ver, il ver, pure i tuoi occhi han certi strani sguardi, ingannarmi sai io crudel. Grazie. No, no, no.

siete voi, bel ciel, avete fatto paura. Io la rimasi fino a sera, quando un tratto la bimba disparve, me ne uscì, era già notte, allor decisi di tornare. Un uomo scendeva lento il sentier dell'ave. La teva forse in persona. Parla sommesso, e per lo riconobbi. Egli è certo un uomo di coraggio. Perché? Perché qui sono e ancora così tarda. Per lui già piange solle. Si teme, qui si voglia vendicar la valli. Poi va, pazzie, però non si sa mai. Alla dormi lontano, ma la notte è questa. Non mi si piglia. Oh! piedi di Valli, il rimorso e l'amore mi guideranno. Ah! Strano, intorno a me sono lamenti, modo stanotte. Thank you.